Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, torneremo sulla borsa, perché adesso l'indice FTSE MIB è sceso anche sotto quota 17.000 punti, ne è sceso ampiamente a 16.700, perde il 2,34%. In realtà vanno come venerdì male anche le altre borse europee, meno 1,40 Parigi, meno 1,30 Francoforte, meno 0,70 Londra, l'America sul Dow Jones è invariata. Però, come sentite, Milano perde un punto percentuale in più rispetto alle borse equivalenti in Europa. Perché? Perché da noi, oltre ai timori Brexit, io lo dico adesso, insomma, Brexit e greggio, ma soprattutto Brexit, da qua al 23 verranno usati sia come pretesto e scusa, inutile girarci attorno, ma anche come elemento di preoccupazione reale per i mercati finanziari, anche come scusa e pretesto, perché quando non si sa cosa dire perché devi vendere, usi la Brexit. Però da noi c'è un tema diverso, nel senso che questo punto percentuale in più che porta Milano a essere tra le peggiori oggi in assoluto, non peggio dell'Asia, questa mattina l'Asia ha chiuso con un meno 3,50 e Hong Kong meno 2,60, si chiama di nuovo mondo bancario. Ora, oggi la Popolare di Milano perde il 9,52%, c'è stata una raffica di sospensioni a Piazza Affari a un certo momento, il Banco Popolare perde il 9,12%, il Monte dei Paschi l'8%, UbiBanca meno 5,40%, Mediolanum meno 5,40%, Pop Emilia Romagna meno 5%, Intesa San Paolo meno 4,60%. E poi UniCredit, un'altra scoppola, perché il titolo va male, ha perso metà del suo valore da inizio anno, adesso è sceso. Vi do l'ultimo riferimento appena riesco a aprire la finestra, eccolo qua, ultimo prezzo per UniCredit è 2,27 euro, lo dico senza darmi il gufo da solo, però con questo andamento, al di là della Brexit e delle tensioni sul petrolio, che però sono, ripeto, più elementi speculativi che altro, occorre forse che iniziamo a livello anche governativo dell'autorità. Parleremo oggi di quanto dichiarato ai nostri microfoni ospiti Giovanni Minoli, il ministro Carlo Calenda, che ha avuto anche parole critiche per la Consob e c'è stata poco fa una risposta di Vegas. Ma al di là di chi sia l'autorità, in questo caso la Consob non c'entra niente, invito il governo e il ministro dell'economia modestamente a stare molto attenti, perché evidentemente sembra quasi scoprire l'acqua calda, c'è una pressione molto forte, c'è una penalizzazione ulteriore che l'Italia vive sul fronte bancario, la vicenda Veneto Banca e soprattutto illudersi che il Fondo Atlante, che ha già finito i soldi, possa essere la soluzione di tutti i mali è molto rischioso. Invito a notare che continuano a essere particolarmente penalizzati, oltre che UniCredit, anche le uniche due banche che hanno fatto il matrimonio con l'aumento di capitale richiesto al Banco Popolare. Però insomma non può diventare una cosa normale vedere che la Pop Milano perde quasi il 10% in una giornata e il Banco Popolare quasi il 10% e il Monte dei Paschi l'8% e UniCredit cede un altro 4,30%. E che il tema di fondo, poi ne parleremo, è che come si risolverà, tra virgolette, tutto il tema delle sofferenze bancarie presenti nelle nostre banche, purtroppo in aumento con l'ultimo dato della Banca d'Italia di venerdì scorso, come ristrutturi questi debiti, in attesa di capire come farà i matrimoni tra le popolari. In questo momento quello che è successo tra Banca Popolare e Popolare di Milano, cioè la forte penalizzazione che ha dovuto subire, o meglio, che è stata chiesta al Banco Popolare per rettificare tutto un insieme di bilanci e l'aumento di capitale, è uno spauracchio per tutti i prossimi matrimoni, perché le uniche due banche che hanno annunciato il matrimonio erano il marito e la sposa, il marito e il marito, la sposa e la sposa, non mi interessa il tema di genere, migliori come dotazione, erano quelle più sane, quelle più pronte. Ecco, se va così con quelle più pronte, la battuta è facile, non oso pensare con quelle più delicate. Non vorrei, ve lo dico facendo qualunque gesto scaramantico, ritrovarmi tra qualche mese a dover discutere del diciamo come salvare le banche o alcune banche italiane, perché non ci abbiamo pensato prima, e non vorrei iniziare al panico o quando, come sempre in Italia, si arriva all'emergenza. Il governo, ripeto, attraverso il Ministero dell'Economia e Finanze, cerca di far capire come si esce da questo vicolo cieco in cui le banche italiane continuano, insomma, a essere strapenalizzate rispetto anche alle loro sorelle europee. Poi c'è il caso Unicredit, in cui ci abbiamo messo del nostro, o meglio gli azionisti dell'Unicredit, dimostrando di essere, mi perdonino il termine, dei dilettanti allo sbaraglio, sono riusciti a far fuori l'amministratore delegato senza avere un nome pronto, e ci hanno spiegato, l'abbiamo raccontato anche venerdì, che ci vorranno due mesi, massimo due mesi, per trovare un nuovo amministratore delegato. Ora, due mesi non sono accettabili neanche, col massimo rispetto, nell'azienda che produce yogurt. Figurati se sei la prima banca o prima o seconda banca del paese, quella più internazionalizzata, quella con una grossa penetrazione in Austria e nell'est europeo. Non capisco come si possa ragionare in questo modo. Tra l'altro, e chiudo su Unicredit, anche la scelta di dire ci siamo affidati a un cacciatore di teste, adesso, massimo rispetto per Egon Zehnder, anzi, se volesse prendere in considerazione anche così chi gli parla, siamo tutti contenti. Ma come si fa a gestire la successione di un gruppo, di uno dei primi gruppi bancari europei, come se cercassi il responsabile marketing della società X, con massimo rispetto anche lì? Ma uno immagina che se gli azionisti sono d'accordo nel mandare via Ghizzoni e cacciarlo, abbiano già un nome o due nomi o tre nomi, o si scontrino su uno, due, tre nomi, non che dopo averlo mandato via dicono adesso ci rivolgiamo ai cacciatori di teste. Sì, magari anche una società di lavoro interinale, perché no? 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora, sì, poi ci sono anche altri titoli che vanno male. Il petrolio penalizza Saipem, meno 5,80%, anche Banca Mediolanum non se la passa bene, meno 6%, Intesa meno 5, Mediobanca meno 5, Unipo meno 4,70, Mediaset meno 4,40, Telecom meno 3,70. Di positivo c'è solo Snam più 0,45 e Leonardo Finmeccanica più 0,1. No, non penso, lo dico a chi scrive, che le autorità di controllo, cioè Banca d'Italia e Consum, possono fare nulla sulla vicenda Unicredit, a meno che non vi siano state fughe di notizie. Allora lì si muovono su ipotesi di reato, aggiotaggio, turbativa di mercato e insider, ma non è questo il caso. Qui è proprio la gestione dilettantistica degli azionisti che hanno mandato via Ghizzoni, ma non erano d'accordo su nulla, tranne forse che su mandarlo via. Allora, partiamo però subito da questo, dalla borsa intesa anche come Brexit, perché saluto in collegamento con noi da Londra il gestore responsabile delle strategie globali del fondo Hargreaves, che è quello di David Serra, è venuto ospite molte volte da David Serra, ma lui è una nostra vecchia conoscenza perché operava già come analista, se non ricordo male, in RBS, in Royal Bank of Scotland a Londra. Alberto Gallo, buonasera. Buonasera. Ciao Mauro. Allora, no, Mauro è l'assistente che l'ha chiamato, io sono Sebastiano, ma va bene uguale, anche Mauro del Corno è giusto che venga citato. Però, Gallo, il calo oggi è generalizzato. Quanta è Brexit? Quanta è speculazione, scusa, sulla Brexit? Poi arriviamo all'Italia. Ma io credo che per gli indici europei sicuramente è molto dovuto alla Brexit. Ci sono stati dei sondaggi che hanno visto appunto il campo anti-europeo guadagnare, e siamo ancora molto vicini. Noi stimiamo la probabilità del voto di rimanere nell'Europa poco sopra il 50%. Ovviamente c'è molta propaganda, molta disinformazione nel Regno Unito, per cui in realtà la conoscenza dell'Europa è molto vaga. Mi scusi, ma la disinformazione è a favore dell'uscita o a favore del restare? A favore dell'uscita, cioè una retorica abbastanza abbastanza populista, per cui il cittadino medio del Regno Unito adesso crede che il Parlamento europeo non sia eletto e crede che ci sia il 15% della popolazione immigrata, quando in realtà è meno del 5%. Queste sono stime di un sondaggio Ipsos Mori di qualche giorno fa, quindi dove i valori riportati dal pubblico vengono confrontati con i valori reali. Quindi purtroppo c'è stato un problema, c'è ancora un problema di disinformazione, ma noi pensiamo che comunque il voto sia positivo, cioè che il Regno Unito rimanga. Il problema è che il margine potrebbe essere molto scarso e quindi puoi presentare la possibilità di ulteriori incertezze in futuro. Quindi lei ritiene che insomma il tema Brexit, più che una scusa per gli operatori per vendere, sia un tema vero, visto il testa a testa, che continua a essere un testa a testa, non si sta assolutamente in qualche modo spostando a vantaggio di uno o dell'altro? Sì, purtroppo è molto, i due campi sono molto vicini. Secondo noi ovviamente la scelta di uscire sarebbe disastrosa per il Regno Unito, perché l'Europa è il partner principale per il commercio. Però mi faccia essere l'avvocato del diavolo, di Kenny Rosso, noi abbiamo già detto che se in Gran Bretagna dovessero vincere i Leave, cioè quelli che vogliono andarsene dall'Unione Europea, vi sarebbero delle forme di accordo, come hanno altri paesi. La Norvegia non è nell'Unione Europea, non è nell'euro, ma la Svizzera per esempio non è nell'Unione Europea, abbiamo fatto dei grandi accordi con la Svizzera. Cioè non è che si stia anche radicalizzando un po' troppo la parte che riguarda i danni? Oggi vedevo Goldman Sachs che ha stimato una perdita del pound del 15%, tra il 15 e il 20%, e un rialzo dei tassi di interesse in Gran Bretagna a questo punto, che potrebbe influenzare anche la Federal Reserve, con tutto in insieme, uno spread che va a aumentare. Ma non è perché non è che la Gran Bretagna diventi improvvisamente, scompaia dal continente, andrebbe a fare degli accordi come altri paesi nel continente europeo che non aderiscono all'Unione Europea. È vero, però bisogna anche ricordarsi che il Regno Unito ha negli ultimi anni ha vissuto molto bene la crisi, perché è il secondo centro di risparmio offshore dopo la Svizzera. E quindi il risparmio, il capitale che sono andati in Regno Unito ci sono andati anche per una sensazione di stabilità. Se questa sensazione di stabilità viene a mancare, allora i capitali non vanno più nel Regno Unito, ma vanno in altri paesi. E quindi anche la City di Londra, dove tutte le banche europee hanno, anche quelle italiane, hanno un quartier generale, poi andrebbero a rimuovere questi uffici e riportarli negli altri paesi dell'Europa. Il problema è il modello di crescita del Regno Unito, che rimane un'economia che genera servizi per il resto dell'Europa, cioè metà degli export vanno all'Europa, 40% degli export sono servizi, non si produce più molto come prima, il manifatturiero è molto, molto ridotto rispetto a 20 anni fa. E questo modello di esportazione di servizi esiste perché c'è un mercato di lavoro flessibile e perché si può investire con sicurezza. Nel momento in cui la sicurezza viene a mancare, anche gli investimenti poi mi scusi Gallo, possiamo dirla tutta, visto che un po' nella City ho lavorato anch'io come giornalista. Insomma, se non ricordo male le ultime stime, sono 300.000 quasi gli europei che lavorano nella City, qualificati e molto qualificati, perché lo sappiamo tutti, spesso sono ragazzi francesi, italiani, spagnoli, portoghesi, che dopo la laurea, dopo il master vanno a lavorare nella City perché trovano opportunità di lavoro, di crescita e di formazione professionale. È manodopera che l'Inghilterra non deve formare e si becca gratis, chiaro che gli paga lo stipendio, ma che permette un vantaggio competitivo enorme della City, il famoso principio di Wimbledon, per cui non è importante che sia un tennista inglese a giocare a Wimbledon, è importante che Wimbledon resti il più importante torneo di tennis al mondo, la piazza più importante. Questa è la logica britannica, che in questo modo riesce ad avvantaggiarsi di lavoratori professionisti già formati culturalmente e professionalmente e li ha gratis. Lei sta dicendo in questo caso bloccare oltre che il flusso dei servizi, perché è vero che poi la piattaforma della City di Londra è la piattaforma dei servizi su cui si rivolgono tutte le imprese europee, oltre che dei risparmi, e rendere più difficile scambio di diciamo flussi finanziari, scambio di servizi e scambio di persone. Gli inglesi non hanno capito quanto a loro serve l'Europa? Sì, sono d'accordo, è proprio questo il punto, anche perché il discorso della Brexit viene poi utilizzato da alcuni leader populisti come Boris Johnson, l'ex sindaco di Londra, o Nigel Farage, che è il capo dello UKIP, UK Independence Party, per diciamo viene utilizzato per come scusa per capitalizzare sui propri voti. Ma anche per esempio quello che è successo in America viene utilizzato diciamo senza alcuna relazione come scusa per capitalizzare. Allora io la ringrazio, grazie anche a Alberto Gallo in collegamento con noi da Londra, dove è responsabile appunto delle strategie globali di Algebris. Vedo molti messaggi invece a favore del leave, per carità. Ragazzi, però una volta tanto, visto che non riguarda noi, io capisco l'amore di questo paese nello schierarsi sempre a tifo, ghibellino o guelfo, ma noi come italiani, per il nostro puro vantaggio, come se giocasse la nazionale, visto che è tempo di europei, dovremmo solo tifare che la Gran Bretagna non esca dall'Europa. O meglio, cinicamente potremmo anche dire che la Gran Bretagna, se esce dall'Europa, può portare qualcosa a noi, e quindi qualcuno può ritrasferirsi su Milano, attività finanziarie e quant'altro, e l'Italia avrà un peso ancora più importante in Europa. Questo sarebbe veramente cinico. Come sguardo di medio termine, insomma, meglio che resti la Gran Bretagna nell'Unione Europea. Ma il vero problema non siamo noi, vedo tifosi della Brexit, il vero problema è quello che capiterà agli inglesi, nel senso che, secondo la mia personale esperienza e quello che leggiamo, i britanni, gli inglesi, perché gli scozzesi sono un po' diversi, gli inglesi hanno una grossissima sottovalutazione dei vantaggi che hanno dall'Unione Europea, a partire dal fatto che sono un contribuente non netto come siamo noi, cioè danno meno soldi di quelli che ricevono, e hanno dei grossissimi vantaggi negoziati dalla Thatcher a suo tempo, con la, diciamo, quella considerazione speciale a cui che fu data la Gran Bretagna, e hanno anche dei grossissimi vantaggi che forse non calcolano perché li danno per scontati, per esempio nell'essere diventati, grazie anche al fatto di essere Unione Europea, quindi facilità nello spostamento di merci, capitali e persone fisiche, sono diventati il posto che più si è avvantaggiato, diciamo, di questo flusso di idee, di persone e di background, di cultura, di preparazione. Se i francesi, i tedeschi, gli italiani, i portoghesi tornassero nel loro paese a fare lo stesso lavoro, la Gran Bretagna dovrebbe contare solo o principalmente sui britannici, e su questo, sul tipo di formazione della scuola britannica, avrei qualche dubbio. Comunque cambiamo tema radicalmente, saltiamo, o meglio restiamo anche in alcuni casi sulla finanza, perché oggi ospite a Radio 24, Mix 24, con Giovanni Minoli, Carlo Calenda, neo ministro allo sviluppo economico, e devo dire che, com'è nello stile di Carlo Calenda, il nostro ospite più di una volta, non le ha certo mandate a dire. E partiamo proprio dalla Brexit, perché ha parlato anche di Brexit, sarebbe un disastro per gli inglesi, ma un'instabilità collettiva sui mercati. Senta, intanto all'orizzonte d'Europa c'è il Brexit, l'uscita dalla Gran Bretagna. Ci rimetterebbe di più l'Europa o la Gran Bretagna? Sarebbe un'occasione anche per lei per ripensare l'Europa, così non va. Diciamo che per forza la dovremmo pensare in questo modo. Genererebbe, speriamo non genererà, una grande instabilità sui mercati finanziari. Però anche Renzi ha detto che sarebbe soprattutto un disastro per gli inglesi, sì, meno per gli europei. È vero. Io lo condivido. E poi altri temi di carattere più italiano. Allora, l'invito al presidente di Confindustria Boccia a fare presto sulla contrattazione aziendale con i sindacati. Ricordo le puntate precedenti, Confindustria e sindacati hanno detto fate fare a noi, che il governo stia per un attimo fuori. E tra l'altro cita anche il Sole 24 Ore Calenda dicendo sì, ma io dico fate presto. e lavorando sui due fronti, su un fronte degli investimenti, e io penso che questo dovrà essere al centro della prossima manovra, molto forte, e sul fronte anche però, per esempio, della capacità del lavoro di agganciare la produttività e quindi la contrattazione aziendale. E su questo la Confindustria e i sindacati hanno chiesto uno spazio giusto per farlo loro, e io, mutuando una famosa copertina del Sole 24 Ore, ho detto sì, ma fate presto. Fate presto. A parte di tutto, Calenda, anche del piano della RAI, ha detto insomma faccia un piano editoriale convincente e che convinca sulla sua indipendenza da influenze detestabili della politica. È fondamentale che la RAI torni a essere il grande motore culturale di questo paese. Sì, ma per farlo cosa deve fare? Deve fare un piano editoriale molto convincente e un piano industriale ancora più convincente. Ma parto dal primo, il primo è persino più importante. Cioè il piano editoriale, cioè, è più cosa importante. Vuole sì, cosa vuole fare? Perché cioè, è come un servizio pubblico? Come si legittima un servizio pubblico? Certo, e questa è una grande sfida oggi. Ma come... bisogna dirlo. Però. No, bisogna... io lo sto dicendo, infatti. Lo dico e l'ho detto anche all'amministratore delegato. E più la RAI è forte, più autorevole sui contenuti e anche più acquisisce indipendenza da tutte le tentativi di influenza della politica, che sono detestabili, in particolare quando non hanno a che fare sulla qualità del, ecco, del però prodotto. Adesso avete nominato appunto un uomo vostro che ha tutti i poteri, adesso deve farlo. Certo, è assolutamente così. È passato così. Già un anno. Ecco, bene, l'ha detto lei, io assentisco. Allora, e poi la vicenda dell'Ilva. Lascio per ultimo lo scontro che poi si è aperto con Vegas. Povero Vegas, insomma, prima lo attacca la Gabanelli e abbiamo fatto notare anche che cosa, insomma, che la risposta della Consob era debole, deboluccia, A mio avviso già la relazione, lo dicevamo in tempi non sospetti, Gabanelli non se ne abbia male, già la relazione della Consob, come quella della Banca d'Italia, non conteneva nessuna autocritica. Nel caso della Consob si contraddiceva anche un po', perché diceva da un lato i prospetti forniti per le banche, le quattro banche, erano corretti, dall'altro però i prospetti sono così lunghi che nessuno li legge. Allora delle due l'una, o servono, però non è che basti dire guarda, il bugiardino era corretto, però se scrivi in fondo cosa ti può uccidere non serve. Allora diciamo che non serve. A me una cosa corretta che non serve la buttiamo via, lo dico a Vegas con massimo rispetto, me ne frega niente di sapere se è ovvio che le banche con i fior fior di consulenti, studi legali e dipendenti che hanno fatto dei prospetti, parlo di Etruria, Marche e via così, Ferrara e Chieti, così non dimentico nessuna, ma è ovvio che i prospetti fossero a norma di legge, ci manca pure quello. Il problema è che non servivano a nulla e non servivano soprattutto a far capire ai risparmiatori che rischi si stavano accollando. Ma prima di arrivare oggi con la gola non ci siamo, prima di arrivare alla parte che riguarda Consob, sentiamo Calenda sull'Ilva. Guardi, noi abbiamo rifatto il processo di gara partendo da un presupposto: verrà giudicata alle varie cordate che si stanno formando, ma su una base di premessa, cioè che il piano ambientale presentato alle cordate sia per noi accettabile. Cioè è molto semplice, l'Ilva non si può mollare perché oltre perché è importantissima come azienda e tra l'altro ha effetti su tutta la catena produttiva italiana, dovrà fare un piano industriale che parte dal piano ambientale e non viceversa, perché è inaccettabile. Credo inaccettabile per un paese moderno che ci sia questa dicotomia tra lavoro e ambiente, certo. Non può esistere. Ma i tempi? I tempi, guardi, sono scanditi dal decreto, noi adesso ci sarà la presentazione delle cordate a fine giugno, poi dovranno presentare il loro piano ambientale, in 120 giorni verrà analizzato il loro piano ambientale e gli verrà data una risposta. Insomma, e solo per a quel dicembre. Punto lavora. Sì, per dicembre la situazione, poi ci sarà il passaggio dell'antitrust. No. Ultima parte di questi estratti dell'intervista che appunto il nostro Giovanni Minoli ha fatto con il neo ministro Carlo Calenda, riguarda appunto la vicenda della Consob in merito a quanto chiese Report. Report disse attraverso la sua conduttrice e ispiratrice Milena Gabanelli, disse a questo punto se fosse così, caro, riferendosi al fatto che la Consob avrebbe chiesto di eliminare anche su base volontaria e i famosi indicatori sintetici del rischio, lei deve dimettersi. Risposta della Consob. Allora, sentite che cosa ha risposto Carlo Calenda, il quale ha detto: per carità, non sta a noi giudicare le autorità indipendenti come la Consob, però, in cauda venenum, la Gabanelli ha ragione. quello che fa male ai risparmiatori italiani è certamente scoprire che la Consob non li ha difesi dalle banche. Deve dimettersi il presidente Vegas. Non credo che stia al governo dire e commentare sulle istituzioni indipendenti, però detto questo, degli errori gravi sono stati fatti. Cioè, il report della Gabanelli ha ragione o no? Ha ragione. E poco fa la risposta di Calenda, di Vegas. Presiedo un'autorità di vigilanza che il Parlamento ha voluto indipendente fin dalla sua legge istitutiva del 1974. Il legislatore ad oggi ha fatto una scelta opposta rispetto a quello dello spoil system. Insomma, rivendica il fatto di essere un'autorità indipendente. E ancora, la Consob ha sempre operato con l'unico obiettivo di perseguire i suoi fini istituzionali fissati dalle norme nazionali ed europee. Prendo atto delle pressioni politiche esercitate nei miei confronti da alcuni esponenti di governo, quindi Calenda oggi. Sono sollecitazioni che prendono mosse da ricostruzioni mediatiche alle quali ho già replicato e ritengo di aver dimostrato l'infondatezza delle accuse. Poi ha risposto anche la Gabanelli di Report. Ha detto: quella di Report non è una tesi, ma è un fatto, come sono numerosi fatti raccontati dalla sottoscritta e da numerosi colleghi in questi anni. Non credo che servano commissioni di inchiesta, i fatti sono abbondantemente chiari. Zanetti diciamo stempera le polemiche, perché dice il vice ministro dell'economia e segretario di Scelta Civica: bene Calenda, siamo in due a dirlo, sia io che Calenda siamo, diciamo in modo esplicito che ci sono stati errori e goffe autoassoluzioni. Il punto è capire se basta che siamo io e Calenda o dobbiamo diventare 3, 4 o 5. Non credo sarà un problema, ma sarebbe opportuno risparmiarlo all'istituzione Consob. E invece Morando dice: no, abbiamo collaborato con l'autorità di vigilanza in modo leale e costruttivo. Dire di più significa che il governo si mette a fare un mestiere che non è suo. Allora, però, su questo diciamolo anche a Morando e al governo. Calenda e Zanetti hanno già parlato, non è che hanno già detto. Quindi, se Morando ritiene che dire di più significhi fare un mestiere non del governo, sta dicendo che Calenda e Zanetti non stanno facendo il mestiere del governo. Non sfugge a Morando un tema di fondo, non entriamo nei atteggiamenti da legulei e da supercazzola, nel senso che da questo punto di vista la risposta arrivata, io se no ve la faccio ascoltare, se riprendiamo anche dopo il meteo la famosa risposta della Consob su questo, nella dichiarazione di Vegas in relazione annuale e anche della Banca d'Italia, perché a me quella cosa che mi sta sulle scatole è che la Banca d'Italia, soprattutto sulla vicenda popolare di Vicenza, dove gli ispettori vanno, chiedono un aumento di capitale e a quel punto quell'altro lo fa attraverso le obbligazioni subordinate, non ha niente da dire, e poi l'intreccio tra ex dirigenti, direttore della Banca d'Italia, poi assunti qualche tempo dopo da Zonin, non è una bella cosa, non è una bella cosa. Per cui, insomma, sullo sfondo, al di là dei tecnicismi, c'è il fatto che nella relazione della Banca d'Italia e nella relazione della Consob non si è sentita mezza riga di autocritica, ossia l'hanno presa in quel posto tutti i risparmiatori, o meglio la maggior parte dei risparmiatori di Etruria, Chieti, Ferrara, Marche, e poi l'hanno presa in quel posto e basta, perché non hanno più una lira, tutti gli azionisti di Vicenza e Veneto Banca assieme fanno 11 miliardi Veneto e Vicenza più 4, arriviamo a una manovra finanziaria, e le due autorità di vigilanza di questo paese dicono semplicemente: abbiamo fatto il nostro dovere. E sti Tarapieta Bioco, prematurata la supercazzola o scherziamo? No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribai con Befalina, come antifurto, per esempio. Beh, allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce? Posterdati per due, anche un pochino Antani, prefettura. Senza contare che la supercazzola prematurata ha perso i contatti col Tarapieta Bioco. No. Meteo. Focus economia. Ero rimasto senza benzina. Avevo una gomma a terra. Non avevo i soldi per prendere il taxi. La tintoria non mi aveva portato il Tide. C'era il funerale di mia madre. Era crollata la casa. C'è stato un terremoto, una tremenda inondazione. Le cavallette! Non è stata colpa mia! Lo giuro su Dio! Vabbè, non è stata colpa di nessuno, come diceva il mitico John Belushi, mi riferisco a Consob e Banca d'Italia. Ripeto, guardate che non è un problema mettere la croce, scrive qualcuno addosso alla Consob, a Vegas o a Visco, ma che croce? La croce l'hanno presa solo i risparmiatori, gli azionisti, gli obbligazionisti, a seconda delle banche di cui parliamo. Ma no, è non far passare questa idea molto italica. Si chiama principio di responsabilità, abbiate pazienza. Se un dirigente di un ufficio, qualcosa capita, sicuramente la responsabilità diretta non è sua, magari è di un suo sottoposto o è di qua. Però se tu sei l'amministratore delegato di un gruppo, ti assumi la responsabilità di quello che capita. Allora, se tu come mandato hai controllare attività di vigilanza sul mercato inteso come Consob e sulle banche inteso come Banca d'Italia e succede quello che è successo, si può stare a sentire noi abbiamo fatto il nostro dovere, non è colpa nostra? Evidentemente sì, tutto qui. Allora, eccolo qua. Il dovere è solo quello degli obbligazionisti, degli azionisti, cioè di coloro che fornivano i soldi alle banche per fare le banche. Vabbè, è colpa degli obbligazionisti, degli azionisti. Perfetto. Ancora c'è, era un po' che non sentivo la sua trasmissione, mi rendo conto che sta diventando più buffone del suo padrone Renzi, bisogna spargere ottimismo, se il bomba non sgancia più i denari per lo stipendio di Barisoni. Tutto bene, però le bugie non si raccontano, perché lei scrive ogni giorno a Focus Economia e quindi non può dire che è un po' che non sentiva la trasmissione, dai, e si allunga il naso. Enrico Pagliarini, prima di arrivare alla borsa, meno 2,90%, 16.621 punti, bruttina, bruttina anche oggi, Parigi meno 1,80, Francoforte meno 1,80, male, come abbiamo detto in apertura, tutti i titoli bancari, io là vedo il dato definitivo del Banco Popolare, meno 10%, 9,90, la Pop Milano, 9,14, Monte dei Paschi, 6,5 Mediolanum, Ubibanca meno 6, Pop Media Romagna meno 6, Intesa meno 5,90, Unipol meno 5,40, Unicredit meno 5,30. Parliamo di una cosa positiva intanto per uno dei due, cioè per chi viene comprato. Mi riferisco a questa operazione pazzesca dal punto di vista dei soldi, 26 miliardi e 200 milioni di dollari per l'acquisto da parte di Microsoft del mitico LinkedIn. Mitico per chi vuole cambiare lavoro, vuole trovare lavoro e non trovarsi un appuntamento la sera galante e incontrare un'anima gemella, lo dico perché qua tra Grindr e LinkedIn si rischia di far confusione, quindi non è il tuo caso, Pagliarini, perché tu lavori Radio 24, quindi forse non sono in cerca di lavoro, buonasera, non so se dire buonasera visti i numeri della borsa di forse era adesso. Più Grindr, però insomma 26 miliardi e 200 milioni di dollari. Il prezzo pagato per un premio del 50%, con un premio del 50% all'ultima chiusura di borsa per comprarsi LinkedIn. Ti chiedo un minuto di pazienza che ho il traffico e poi cerchiamo di capire come mai e quali siano le valutazioni che si fanno per pagare 26 miliardi di dollari. Per carità, è il sito più importante di relazioni professionali, però sono 26 miliardi di dollari. Focus Economia. :17:51 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Sì, Grindr, Tinder, adesso lasciate stare i nomi che io ho citato, diciamo così, a sproposito. Il tema è Enrico Pagliarini, che conduce Radio 24, il programma 2024 dedicato proprio alle tecnologie e alla loro applicazione. Come si fa a pagare 26 miliardi di dollari un sito per quanto importante? Cioè, chi ci guadagna? Io veramente è la mia ignoranza, ma come fai a guadagnare dopo che hai speso 26 miliardi di dollari sulla base di un sito che, se ben ricordo, mette assieme il mio profilo, il mio curriculum con altri curricula, e se io ho bisogno di un profilo come il tuo lo becco su, non su Grindr, ma su LinkedIn. Su LinkedIn. Allora, si fa se si attribuisce un valore pensando all'integrazione che si può fare con il database, che è un database molto importante perché a 433 milioni di utenti, sono utenti per la maggior parte qualificati, che soprattutto aggiornano costantemente il proprio profilo, quindi è un database di profili aggiornati. Allora, uno dei problemi delle aziende è quello di A, cercare persone quando si cercano nuovi lavoratori, B, cercare anche clienti, perché LinkedIn serve anche per costruire relazioni professionali. Allora, se facciamo proprio un esempio molto, molto semplice, se tu hai 1000 contatti sul tuo Outlook, che è il programma di Microsoft all'interno della suite d'ufficio, so cos'è Outlook, è vero che sono un dinosauro. Però dico, all'interno di Office c'è Outlook. Allora, se tu hai 1000 contatti, magari quelli sono contatti di lavoro, uno dei problemi che hai è tenere aggiornati questi contatti. Se io integro LinkedIn, è una delle ipotesi che si stanno facendo e che si possono fare, se io integro il servizio e il database di LinkedIn a questi 1000 contatti, probabilmente una buona parte di questi 1000 contatti hanno anche un profilo LinkedIn. Essendo che il profilo su LinkedIn è aggiornato, automaticamente se io connetto le due cose, questi profili sono aggiornati, che è un grande valore per le aziende, per trovare nuovi clienti. Fammi capire che io sono un po' rurale da questo punto di vista. I soldi, il guadagno, il margine su questa operazione, dopo che io Microsoft sborso 26 miliardi di dollari per comprarmi LinkedIn, i soldi li guadagno utilizzando i profili, oltre che i soldi soliti, oltre che al giro d'affari che già LinkedIn faceva. Sì, esatto, li puoi fare in due modi i soldi. Allora, il primo è vendere nuovi servizi, sfruttando tutto il network che è molto più grande di Microsoft rispetto a quello di LinkedIn, quindi hai molte più possibilità di monetizzare questo database. Prima opzione. Seconda opzione, creare maggior valore all'interno di Office. Microsoft pensate che Microsoft ancora oggi con Office ha 1,2 miliardi di clienti, però c'è Google con tutta la suite d'ufficio che si basa soprattutto sulla Gmail, ma che offre sostanzialmente cose molto simili ad Outlook, Word, eccetera eccetera. Deve difendersi da questa concorrenza. Ovviamente Microsoft deve fare di tutto per mantenere questo grande valore, quindi non è escluso che alcuni dei servizi che LinkedIn oggi vende verranno integrati gratuitamente all'interno di Office. Questo potrebbe essere una delle perché opzioni. No, 26 miliardi sono tanta roba, sono anche molti, perché sono, il prezzo pagato ha un premio del 50% sulla chiusura di borsa di venerdì, però, e viene valutato $196 ogni azione di LinkedIn, ma il titolo ha perso quasi il 42% da inizio anno quello di LinkedIn, sì, con stime deludenti. Quindi per far capire tutti, io guadagno dal database, cioè dall'archivio di nomi aggiornato. Questo poi lo potrò anche vendere alle aziende? Ah, certo, sì, perché uno dei business di LinkedIn... Non va a violare la privacy, chiaramente. No, allora, è molto facile. Se non Io era stato... Già No, la prima volta che tu ti iscrivi a LinkedIn, accetti un contratto. Certo. Se, integrando il tutto all'interno della suite di Microsoft, ci dovessero essere delle novità, si fa molto presto, si manda una bella email e si dice, guarda, tutte le opzioni vengono aggiornate così, le accetti, e il 99% dice accetta. E quindi automaticamente i problemi di privacy non ci sono più. Comunque, a proposito del fatto che questa è un'acquisizione con un valore molto alto, pensa che Microsoft ha fatto 196 acquisizioni e questa è quella di maggior valore, quella che ha pagato di più in assoluto. Allora, vorrei capire ancora una cosa con te dopo il GR24, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e chiaramente poi anche il sito di Radio 24, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Vendi bene e incassa meglio. Assicom, marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. Bye bye Europa? Londra decide, dentro o fuori. Il 23 giugno il Regno Unito decide se rimanere nell'Unione Europea o lasciarla dopo 43 anni. Comunque vada, il referendum britannico ha già prodotto un terremoto che scuote il progetto europeo. Dal 17 al 25 giugno, Radio 24 vi racconta come si è arrivati a questo punto, chi rischia di più e cosa accadrà dopo il voto. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto, grazie alla digital radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, container, con Massimo De Donato. Focus Economia. E 10 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, volevo concludere l'approfondimento su questa mega operazione, per non parlare sempre di borse, banche. Adesso arriviamo alle borse, alle banche, da 26 miliardi di dollari. Però facevano notare gli ascoltatori, in effetti è così, Enrico Pagliarini, che Microsoft, nel comprarsi LinkedIn, ha annunciato che LinkedIn manterrà il suo brand, la sua cultura, la sua indipendenza. Tu dici, questo non esclude e non preclude una fusione de fatto? Beh sì, magari fra un anno annunciano che invece verrà fuso, questo non è detto. Comunque sì, una volta che tu controlli una società puoi integrare maggiormente questi servizi e offrire un pacchetto completo alle aziende, questo non è sicuramente un problema. Vedremo che cosa succederà in futuro, perché visto che Microsoft comunque sì è un'azienda che fattura molto bene e continua a macinare soldi. Beh, 94 miliardi di dollari, 12 mila dipendenti. Sì, è un'azienda che continua a andare molto bene da questo punto di vista. Non è escluso che c'è un altro bel pezzo di software, diciamo così, è un servizio online che nelle aziende è molto conosciuto, che si chiama Salesforce, è un CRM, le aziende usano il CRM, che è un sistema per avere relazioni con i clienti. C'è chi dice sul mercato che si sta guardando dove finirà Salesforce. Diciamo che potrebbe essere un'accoppiata vincente Salesforce, Microsoft e a questo punto anche tutto il database di LinkedIn. Sarebbe un servizio molto interessante per le aziende, soprattutto per le piccole aziende, visto che Microsoft si rivolge a un'attenzione particolare, penso all'Italia che è piena di piccole aziende, soprattutto a questo segmento dell'industria. Allora, grazie Enrico Pagliarino. Ora restiamo invece sulle operazioni meno esaltanti, meno eccitanti, sicuramente non di crescita, di oggi sul mercato. Prevalgono, è quasi un eufemismo, le vendite. Brutta giornata anche oggi, fotocopia di quella di venerdì, solo che a questo punto il FTSE MIB è sceso a 16.600 punti, ma non è tanto questo a preoccupare, è che la maggior parte delle vendite si sono concentrate sulla parte bancaria, ancora penalizzando Banco Popolare, Popolare Milano e Unicredit. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. E poi arriviamo allo spettro Brexit, che per carità resta il tema dominante sui mercati. Parigi ha perso l'1,85% come Francoforte, Londra ha perso l'1,16%, però ripeto, c'è almeno un punto percentuale in più che perde Milano e si chiama mondo bancario. Ciao Condi, nella Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, la volatilità nei bancari ha portato anche ad alcune sospensioni, ma insomma vorrei capire se c'è qualche notizia specifica che porti il Banco Popolare a perdere oggi il 10% in borsa. La Pop Milano, la maritanda, si può dire così, la sposanda, o comunque chi è oggetto di fusione con il Banco Popolare, meno 9,90, Monte dei Paschi meno 9, Mediolanum meno 6,5, Ubibanca meno 6, Pop Emilia Romagna meno 6, Intesa meno 5,90, Unipol meno 5,40, Mediobanca meno 4,90 e Unicredit meno 5,30%. Di Unicredit oggi si occupa anche Barclays in un report. Dice Attenzione, Unicredit dovrebbe fare delle forti cessioni nelle sue partecipazioni più redditizie, Bank Pekao, Yapi Credi, Fineco, risolverebbe il tema del capitale, porterebbe a casa, servono 33 miliardi per pulire il portafoglio di Unicredit dai non performing loans, ossia dei crediti non più esigibili, dalle sofferenze bancarie. Il titolo è sceso ai minimi dal gennaio del 2012. E a te il commento, che io di Unicredit ho già parlato ampiamente. Prego. Ma guarda, allora è stata una seduta difficile in tutta Europa per i bancari. Infatti, se andiamo a vedere un po' i sottoindici di settore europei, quello bancario è il peggiore, ha ceduto il 2,9%. Milano, poi, come sappiamo, il peso degli istituti di credito è molto forte sul listino, e da qui deriva anche il fatto che Piazza Affari è stata la peggiore di tutto il vecchio continente. Il Banco Popolare è sotto aumento di capitale da 1 miliardo di euro, quindi c'è anche questo elemento da considerare per spiegare questo ribasso del 10%, ma anche se guardiamo per esempio Intesa San Paolo, vedere Intesa San Paolo sotto quota 2 euro dà un po' l'idea del fatto che oggi le vendite hanno colpito un po' indiscriminatamente tutto il comparto del credito in Italia. Ancora sì, io ho altro da aggiungere, soprattutto sulla vicenda di Unicredit. Ripeto, siamo di fronte a dilettanti allo sbaraglio. Lo sbaraglio poi è quello del titolo, ahimè. Saipem meno 6,12%, e qui incide il prezzo del petrolio? Sì, in parte sì, anche se dobbiamo dire che poi il petrolio nel pomeriggio, dopo veniva da due sedute di ribasso, ha recuperato adesso Wall Street e il WTI sulla parità. Ci sono titoli che hanno retto meglio su Saipem, comunque diciamo Saipem è nuovamente sotto il prezzo dell'aumento di capitale, è stato downgradato da varie agenzie di rating, c'è ancora da parte del mercato la preoccupazione che la società tagli nuovamente i target, e quindi diciamo più di altri poi soffre situazioni di crisi sui mercati. Infatti un 6,1% di passivo è molto pesante. Molto pesante, non c'è niente da dire su questo. Ancora oggi è un bollettino di guerra: Unipol meno 5,40, Unicredit diciamo meno 5,30, Mediobanca meno 4,90, Mediaset meno 4,5, il 4% lo perde Azimut, il 3,70 Telecom, il 3,30 Unipolsai e Generali, il 2,90 Yux Net-a-Porter, il 2,80 Fiat, il 2,60 Luxottica, il 2,5 Ferragamo, il 2,30 Eni e Prismian. Fronte opposto, Snam più 0,60%, Leonardo Finmeccanica sostanzialmente perde solo lo 0,11%. Beh, che dire, diamo i migliori e i peggiori a sto punto, cioè, perché tanto su una giornata del genere c'è poco da fare, distinguo. E allora, migliori e peggiori: Seat Pagine Gialle più 4%, Ceramiche Ricchetti più 2,60, Banco Desio, Blue Financial più 2, Nokia più 1,80, Emasi Agricola più 1,40. E poi peggiori, a parte Gala, meno 13%, sono appunto Banca Popolare, Pop Milano e Monte dei Paschi. Male oggi anche il gruppo editoriale L'Espresso, meno 6,70%. Grazie a Ceo Condi, nella Radio Corriere sulle 24 ore. Ragioniamo invece di scenari, in questo caso non solo sulle banche italiane, ma sulla Brexit, tra un minuto dopo il traffico. Focus Economia. Just hope you ain't the money, money, money, money, money. Love me, honey. You got me singing Georgia. Allora, qualcuno già scrive: adesso avanti con il terrorismo europeista. Ho già chiarito in apertura che se uno volesse essere cinico, dovrebbe sperare che vincano i sì all'uscita della Gran Bretagna, perché qualcosa poi si può avvantaggiare anche l'Italia con qualche rientro e una posizione più forte in Europa. Se invece uno vuole essere tattico e strategico, deve augurarsi che la Gran Bretagna resti nell'Unione Europea, per gli scossoni che subirebbe l'intero sistema. A me sembra di capire che a preoccupare i mercati su questo fronte, visto che appunto al di là delle banche italiane oggi hanno ceduto tutte le borse, sia soprattutto, oltre che l'ipotesi che possono vincere i Leave, quelli che vogliono andarsene, anche l'estrema incertezza che viene proiettata dai sondaggi, proiettata dalle proiezioni, per usare un gioco di parole. Ormai gli euroscettici nel sondaggio venerdì scorso sarebbero al 55% contro quelli a favore dell'Unione Europea, che sarebbero al 45%. Il Sunday Times pubblica un sondaggio oggi: 43% a favore del restare in Unione Europea, 42% favorevole all'addio, 11% indeciso. Insomma, siamo veramente al testa a testa. Però riprendo il commento in prima pagina sul Sole 24 Ore di ieri, a firma di Guido Tabellini, perché ci riguarda da vicino, dove può arrivare il contagio di Brexit. Allora, grazie a Guido Tabellini, che insegna economia presso l'Università Bocconi di Milano ed è editore del Sole 24 Ore. Buonasera, professore. Buonasera a voi. Dunque, dove può arrivare il contagio di Brexit e perché dovremmo occuparcene anche noi, al di là delle turbulenze dei mercati finanziari? Perché uno può anche dire, vabbè, non sono investito e chi se ne frega. Beh, la premessa è che è difficilissimo fare previsioni in questo campo. La seconda premessa è che l'incertezza fa male all'economia e ai mercati finanziari, e questo lo vediamo tutti i giorni in questo momento. Detto questo, il referendum arriva in un momento molto particolare, perché subito dopo il referendum ci saranno le elezioni in Spagna e poi, dopo pochi mesi, il referendum costituzionale in Italia, poi le elezioni in Olanda e poi a seguire in Francia e Germania. Quindi c'è timore di un contagio politico da parte del referendum inglese sul comportamento degli elettori in questi altri paesi, anche perché in tutti questi paesi sta naturalmente crescendo l'opinione euroscettica, o comunque che vede che non ha più fiducia nell'Unione Europea e nelle sue istituzioni, e guadagnano consensi invece partiti più nazionalisti. Quindi il timore che tutti hanno non è tanto che escano altri paesi dopo l'Inghilterra, anche se nessuno è in grado di escludere questa eventualità estrema, ma anche senza arrivare a questi scenari più catastrofici, è probabile che un Brexit, un voto di Brexit, possa rinforzare i partiti più antieuropei in tutti i principali paesi europei, e questo imprimerebbe un rischio di arresto o comunque di non proseguimento del processo di faticoso di integrazione europea. Dunque, fanno notare gli ascoltatori che è vero che la borsa britannica paradossalmente spesso perde meno delle borse dell'area euro, diciamo così. Però quello che alcuni altri ascoltatori fanno notare è proprio il punto, se ho ben capito, che toccava adesso Guido Tabellini, perché alcuni mi dicono: ma com'è che gli inglesi sono liberi di scegliere su un tema così importante? E in effetti, a mio avviso, professor Tabellini, il punto è che già sta partendo l'idea: beh, allora, se gli inglesi possono votare se restare o non in Europa, ma perché non possono farlo anche gli spagnoli, i greci, i portoghesi, gli italiani? Probabilmente il voto da noi sarebbe diverso, probabilmente, perché abbiamo c'è maggiore consapevolezza dei vantaggi nel restare in Europa. Non che l'Italia abbia più vantaggi, ne ha tantissimi anche la Gran Bretagna, anzi forse più di noi, però c'è forse più consapevolezza. Ma il rischio è il tema politico, per cui adesso, se votano gli inglesi, beh, proponiamo anche noi un referendum? Ma sicuramente ci saranno delle forze politiche che uscirebbero rinforzate da questo e che spingerebbero in questa direzione. Io penso che quello inglese sia stato un errore storico di chiamare un referendum su queste questioni, proprio perché l'incertezza è la cosa peggiore per l'economia, e l'economia inglese era un'ottima democrazia anche senza questo referendum. Quindi l'idea che su queste questioni si debba votare mi sembra un'idea sbagliata, soprattutto in un momento in cui il mondo globale richiede invece più sovranazionalismo, più coordinamento, non meno. Sì, diciamo che questa è la scuola di chi dice i referendum devono essere fatti su temi etici, di coscienza, morali, in cui il partito, il governo non può dare indicazione perché sono cose private. Pensiamo ai grandi referendum anche in questo paese su temi etici e morali. Non possono sostituirsi l'azione di governo, perché tu sei eletto per governare e per dare al tuo paese le indicazioni. Ora, se restare o no in Europa può essere una scelta che prende un governo e poi sottopone al referendum, ma non puoi, diciamo, tra virgolette, è sembrato un po', professor Tabellini, che lo stesso Cameron abbia sottovalutato e se ne sia quasi lavato le mani all'inizio, per poi capire che invece questa era una slavina. Io credo che la realtà è che Cameron abbia deciso di fare quello che ha fatto per interessi di bottega, per cercare di tenere sotto controllo la fascia più euroscettica del suo partito, esponendo però tutta l'Europa, non solo l'Inghilterra, a dei rischi di che è difficile valutare per chiunque, non solo per Cameron. Sì, un po' per usare Goethe da apprendista stregone. Senta, professor Tabellini, però alcuni dicono: attenzione, state montando, perché si è sottovoto tutto questo terrorismo mediatico sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. In realtà abbiamo altri casi di paesi, citavamo la Svizzera, Tukur, ma anche la Norvegia, che hanno aperto poi degli accordi con l'Unione Europea, per cui la Gran Bretagna potrebbe uscire e poi dire: vabbè, intanto facciamo degli accordi sullo scambio delle merci, delle persone, dei servizi finanziari. In linea di principio certamente questo è possibile, come ha detto lei ci sono altri esempi. Dal punto di vista politico a me sembra poco probabile, proprio perché, per quello che ci siamo detti, perché tanto meglio stanno gli inglesi fuori dall'Unione Europea, tanto più ci sarebbe il timore che altri vogliono uscire, e quindi io penso che seppure con distinguo, con cautela, l'atteggiamento degli altri paesi europei sarebbe molto intransigente in questo caso. Allora, correggo, mi faccio fare suo avvocato, la stanno criticando su WhatsApp e sugli SMS perché ha detto votare sbagliato. Io so ben capito, però richiarisca con certo, non sono certo il suo avvocato io. Non è, il popolo è sovrano, però ci sono dei temi in cui tu eleggi una classe politica perché governi, non perché ti mandi a referendum su temi politici. Però prego, Tabellini. Sì, la politica è una delega, noi votiamo per delegare le decisioni politiche ai nostri rappresentanti, che poi possono chiedere la nostra opinione quando ritengono opportuno, quindi è ovvio che dal punto di vista costituzionale niente di errato, ma su questioni così delicate e così controverse, nelle conseguenze in cui è così difficile valutare le conseguenze di medio-lungo periodo, io penso che non ci fosse una ragione valida in questo momento per indire questo referendum. In linea di principio ci possono essere delle situazioni in cui questo è giustificato. A me sembra che questo non fosse il caso dell'Inghilterra, dove le ragioni erano principalmente di politica interna, di partito conservatore, insomma, di partito, esattamente. Quindi per un interesse, chiamiamolo così, di bottega, di shop, adesso mettiamo a repentaglio non solo creiamo molta incertezza, repentaglio eccessivo, creiamo molta incertezza non solo in Gran Bretagna ma anche a livello di Unione Europea. Comunque grazie anche a Guido Tabellini, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.